Buongiorno a tutti, bentornati nello studio di Radio Città Fujiko. Io sono Marco Segato e anche oggi sono qua con voi per parlare del nostro progetto ReArt, Artisti Uniti contro il Riarmo, contro la Guerra, per la Pace. Qua con me oggi ho Andrea direttamente dai Manicas, benvenuto. Grazie, ciao a tutti, ciao Marco e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko. Noi siamo grandi sostenitori, essendo un gruppo della Bolognina. Per noi è la radio più bella del mondo. E anche noi la pensiamo così, soprattutto io. E quindi cominciamo subito facendo anche un po' di domande, già ci hai accennato. E io ti chiedo, giusto per il fatto che non abbiamo potuto ospitare al completo, ti chiedo anzitutto chi sono i Manicas e che cosa vi ha portato poi anche ad arrivare qui a Radio Città Fujiko. Allora, noi siamo un gruppo nato a Bologna nel 2019, tipo un trio electropunk wave. Siamo un gruppo nato qui a Bologna, che avevamo molta voglia di partecipare a questa iniziativa contro il Riarmo, perché portiamo un nostro messaggio nelle canzoni, cantando in italiano, cercando comunque sempre di dare una nostra ottica a quello che vediamo e alla realtà. Insomma, la musica nostra non è commerciale, non cerca piacere a tutti per forza, ma cerca di incisiva per quello che noi crediamo sia il dire quello che vogliamo. No, quindi era per noi doveroso, insomma, partecipare a una iniziativa in questo momento così importante. Infatti è sempre molto importante prestare anche attenzione, tendere l'orecchio verso quelle persone che creano dell'arte, creano della musica, facendo proprio l'arte e la musica, quindi facendo anche attenzione che sia anzitutto un prodotto bellissimo, oltre che magari mandare anche un messaggio. E molto sovente questo risulta molto difficile. Quindi ti domando anche come è nata questa canzone? Guarda, Al-Mukawama vuol dire resistenza in arabo, per noi è un po' una resistenza generale, cioè è riferita ovviamente al contesto palestino-israele, però è anche una resistenza di tutti noi di resistere all'inquinamento e di riuscire comunque a lottare sempre per un futuro migliore, qualsiasi sia la condizione. Il nostro poi è una canzone comunque abbastanza centrata su questo punto, è una canzone che sentirete con delle sonorità molto ossessive, con una voglia di far entrare le parole come una cronaca della realtà. Il bello di questa canzone è che poi, raccontando la cronaca, diventa viscerale, cioè noi quando la suoniamo dal vivo ci fa quasi male, e le parole che poi diciamo ovviamente sono spesso superate dalla realtà, che a volte diventa ancora più tragica di quello che noi riusciamo a esprimere con le parole. E un contatto con la musica crea questo suono, questo tutt'uno musicale, che per noi diventa molto importante e significativo. Da qui è stata la voglia di cantare una canzone sulla resistenza, perché come anche diceva Gino Strada, poi la questione non è essere per la pace, ma essere contro la guerra, e quindi questo diventa un punto centrante per noi, nel senso combattiamo poi contro la guerra in tutti i casi, a qualsiasi cosa, e questo è il messaggio che volevamo fare uscire con questa Al-Mukawama. Veramente un messaggio bellissimo, poi ci ritorneremo, ci faremo un focus proprio sulla parte del messaggio. Però mi avevi parlato un po' del sound di questa canzone, che secondo me è molto particolare, perché proprio mi ha dato subito un attimo una sensazione cupa, quasi di attenzione, di inseguimento, di stare sull'attenti. E quindi ti volevo chiedere anche a cosa si ispira a livello di sound, o comunque quali erano le sensazioni che volevate far passare a livello di sound, ed un attimo anche da dove nasce la melodia. Guarda, questa canzone nasce a Berlino, eravamo andati al concerto di CCCP e Francesco, il mio compagno di gruppo, eravamo lì a Berlino, veramente abbiamo vissuto la città in 3 giorni, siamo nell'underground, tanto arrivavano le comunicazioni della guerra in Palestina, e non so perché da quella città sembra sempre tutto più denso, sempre tutto più cupo. Più avevamo questa, sai, le cose, quando passi dentro la città vedevamo anche il checkpoint Charlie con le persone che si facevano i selfie, le fotografie, quindi abbiamo immaginato che c'era contemporaneamente questo Trump Gaza, questo villaggio turistico immaginato da Trump, e ci siamo immaginati una stessa situazione anni dopo, completamente una città, una nazione tutta che diventa un parco giochi e diventa un ricordo. Quindi ci sembrava che parole poi sono scivolate da sé, questo ricordo alla resistenza, questa possibilità di riuscire a raccontarla con un'ottica punk, puramente, cioè dentro la canzone sentirete tutta la cupezza del basso sentirete la chitarra di Carmelo Pipitone, e il nostro amico che è un grande musicista che ha suonato con Marta sui tubi, con Orc e tanti altri progetti, che ci ha messo una chitarra veramente potente ed inquietante, ci ha fatto questo onore, e quindi fa crescere tutta questa tensione che poi va a culminare su questo finale che è un grido di resistenza, e penso che oggi ce ne sia bisogno, perché la capacità di immedesimarsi è davvero poca, però se ogni giorno poi accendiamo la televisione, vediamo le notizie, dentro di noi entra solamente l'apatia, diventa veramente un viaggio inumano, che la nostra prospettiva era alta. Quindi Berlino ci ha dato questa infatuazione, dall'altra parte avevamo quello che succedeva nella realtà e abbiamo fatto un'unione di questi due mondi per creare questa discoteca sotterranea con i bombardamenti sopra. Ma infatti hai detto qualcosa di, secondo me, veramente bello, ovvero il fatto che c'è sempre bisogno di resistenza, ma anche di comprensione, empatia e consapevolezza. Tra l'altro mi permetto di fare un piccolo inciso sulla zona Checkpoint Charlie, perché io mi ricordo che quando ci andai, lì di fronte si trovava tutte bancarelle che vendevano anche articoli di antico gusto che ricordavano i vecchi tempi andati. Mi sembrava veramente una cosa di cattivo gusto, una cosa che davvero stonava un po' con l'ambiente. Eppure alla fine non sono situazioni poi che ci sono così lontane, ma in realtà si vanno poi a toccare nel quotidiano, perché se poi pensiamo che il ministro della difesa di Israele dice che stanno uccidendo animali umani, riferendosi ai bambini, noi che nel testo della canzone diciamo oggi siamo bambini, domani passeranno, a noi sembrava un messaggio violento, in realtà si supera veramente 3000 volte nella costruzione della crudeltà, e quindi a me l'apatia, a tutti noi l'apatia che crea questa distanza dalla morte che poi è dietro l'angolo, turba ossessivamente, direi che è la cosa che pensiamo di più in questo momento storico, purtroppo. Infatti proprio anche per combattere tutto questo, mi dicevi prima che c'è stato molto studio dentro il messaggio della canzone, c'è molta emozione dentro, e infatti ti volevo chiedere di appunto ampliare già quello che mi stai dicendo prima, spiegandoci un po' bene il significato, proprio il messaggio che voi volevate che le persone sentissero mentre ascoltano la vostra canzone. Guarda, alla fine Al-Mukawama, il brano che abbiamo scelto di mandarvi, è anche una parte del concerto, un nuovo album che è uscito a febbraio, si chiama Arcadia, che è molto particolare, perché essendo che è un album concept variegato musicalmente, Kawama è la parte più lenta, quindi entra quasi alla fine di un'ossessione sonora per entrare nella parte più cruda anche dei nostri live, e quindi quello che noi volevamo dare all'ascoltatore era proprio questa sensazione di claustrofobia, che poi è quella che abbiamo anche noi. Abbiamo veramente immaginato una discoteca sottoterra con dei bombardamenti sopra, e contemporaneamente gente che balla felice e la morte pochi centimetri fuori dal checkpoint, no? Fuori dal blocco. Quindi il messaggio è che guardiamo veramente quello che succede, noi non traiamo le conclusioni del brano, a livello emotivo noi vediamo di non metterlo un punto di vista, tutto sommato, eppure diventa così un racconto crudo e tutti quanti fanno poi una idea che siamo ancora umani, è di lotta, di resistenza. Non so se sono arrivato al punto. No, sei stato chiarissimo. Il nostro tempo insieme sta per finire, quindi dopo aver parlato del messaggio della tua canzone e della vostra canzone, la bellissima Al-Mukawama, ti chiedo invece a te che messaggio vuoi lanciare in questo momento? Hai la totale libertà ai microfoni di Radio Città Fujiko di mandare un qualsiasi messaggio, un qualsiasi appello a tutte le persone in ascolto. Beh, guarda, io quello che voglio dire è semplicemente continuate ad ascoltare Radio Fujiko, perché avere musica libera e programmi così belli, così fatti di cuore, è raro, quindi se non ascoltate Radio Fujiko siete tutti messi male, quindi un grande supporto, un grande abbraccio a tutta la redazione e a tutti i conduttori, perché se esiste una radio libera è questa, e forse è l'unica radio che vale la pena di ascoltare. Io ti ringrazio, sei davvero troppo gentile verso la nostra Radio Città Fujiko, ricordiamocela sempre bella, libera ed indipendente. Io sono contento di essere stato qua con te, dei Manicas, che siete un gruppo punk, e soprattutto in questo periodo si sta dicendo moltissimo che la gentilezza è il nuovo punk, quindi mi raccomando continuate a fare il punk, a fare la resistenza, e continuate ad essere gentili. Di gentile. Sì, sì, continueremo a fare il sangue gentile e dalla Bolognina, quindi proprio vicini di casa. Esattamente, proprio dalla Bolognina, dove chiunque può andare a salutarli, può andare a fare una jam insieme per le strade di Bologna. E il nostro tempo, ahimè, è finito qui. Io ero Marco Segato per il bellissimo progetto ReArt, Artisti Uniti contro Riarmo e per la Pace, ed ero con Andrea dei Manicas. Grazie a tutti, ascoltate i Manicas. E quella che state per sentire è proprio la canzone di Per ReArt dei Manicas, e il suo titolo è Al Muqawama. Oggi le scarpe sono rotte, eppur bisogna andare.